Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento con l'Adico di Mestre, con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, parliamo in qualche modo di multe, quelle che capitano soprattutto agli automobilisti. Mi viene in mente la notizia di un paio di giorni fa di un uomo pescato senza assicurazione e da 15 anni con la macchina e anche ovviamente senza revisioni. Si è preso 1200 euro di multa e quelle, insomma, se ne dovrà pagare sequestro della macchina e quant'altro. Però ci sono delle multe che sono particolarmente fastidiose, quelle che prendiamo magari perché ci superiamo di quei 5 km all'ora la velocità consentita e veniamo matematicamente fotografati. Sì Francesco, vogliamo dare una bella notizia ed è caso di dire, annunciando proprio che giustizia finalmente viene fatta, in quanto questa volta è stata la Corte Costituzionale a arrivare alla fine di un lungo percorso giudiziale dove molti giudici davano dei pareri anche contrastanti su quelli che erano dei ricorsi di cui anche l'Adico, come altre associazioni e anche altri studi legali, facevano nei confronti di queste apparecchiature autovelox, appunto, il quale una volta per tutte è stato decretato che gli autovelox devono essere anche loro soggetti a una revisione almeno una volta all'anno, in quanto essendo apparecchi elettronici, quindi soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e dei valori misurati anche per effetto di invecchiamento delle proprie componenti, pensiamo per esempio anche agli urti, alle vibrazioni, ai shock meccanici, termici, alle variazioni di tensione anche della rilevazione, sono tenuti per cui a essere soggetti a verifiche collaudi, almeno come detto una volta all'anno. Diversamente i ricorsi potranno essere accolti e per cui si annuncia finalmente anche la possibilità per gli automobilisti, insomma, di ottenere giustizia qualora individuino, insomma, le proprie ragioni. Ecco, ci sono da dire due cose: ci sono gli autovelox, quelli fissi, che quelli vengono soggetti automaticamente a un controllo di revisione più o meno annuale, giusto? Mentre il riferimento qui è specifico sugli autovelox che sono in dotazione alle pattuglie. Sì, e diciamo che in questo caso viene messo la parola fine all'interpretazione, ma tutti gli apparecchi che rilevano le velocità devono essere sottoposti a controlli da parte della casa costruttrice. Chiaramente dobbiamo sempre ricordare agli ascoltatori che chi ha pagato la multa non può fare ricorso, tenere i soldi indietro, ma certamente chi da oggi potrà ricevere multe notificate tramite questi apparecchi potrà considerare l'opportunità o meno di intraprendere una strada di ricorso qualora si individuino nell'apparecchiatura una mancata di revisione anche per loro un anno. Quindi immaginiamo che adesso domani c'è una pattuglia della stradale che ci ferma e ci dice: lei stava correndo a 15 km più del consentito rispetto alla segnaletica stradale. Cosa dobbiamo ovviamente contestare subito la multa? Allora io mi auguro intanto Francesco che da oggi, quando si ricevono i verbali di questo tipo di contravenzione, si sia legato anche la data di revisione dell'apparecchiatura, salvo diversamente la persona potrà valutare se rivolgersi, noi consigliamo sempre il giudice di pace anziché il prefetto, il corso, onde evitare di incorrere in quella che è una sanzione amministrativa, ma anche di quella che è una sottrazione dei punti. Ricordiamo che per eccessi di velocità superiore anche a 60 km orari c'è il ritiro della patente, però dobbiamo anche dire che non è il caso di quelle persone che si rivolgono a noi, ma di quelle più che vengono applicate 5-10 km orari superiore al loro limite e che quindi hanno queste possibilità. Leggevo tra le molte notizie che mi capitano ogni giorno che siamo il paese con più autovelox d'Europa. Sì, in questo caso più autovelox e più colonnine, pensiamo anche tutto lungo le autostrade, quindi a questo punto tutto sarà possibile e soprattutto, come detto, ci sarà un grande lavoro di riordino, ma soprattutto non vogliamo pensare di non far pagare multe, ma chi li notifica di mettersi in regola quelle apparecchiature in modo da evitare false interpretazioni. Ecco, quindi occhio comunque alle strade, occhio alle velocità. Devo dire che, ahimè, quando intraprendo strade che non conosco, ho sempre paura di incappare in qualche controllo e sono lì che divento matto a cercare la velocità da tenere in strada, perché poi è un attimo effettivamente superare di poco quel limite ed è veramente spiacevole vedersi recapitare delle multe a casa. In ogni caso, ricordiamo che c'è l'Associazione Difesa Consumatori che è sempre disponibile a dare ulteriori consigli. Il sito è sempre quello, www.associazionedifesaconsumatori.it. Ringrazio quindi il presidente Carlo Garofolini. Con te Carlo, ci risentiamo anche la settimana prossima. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.